Eccoci qua con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola e condotto da dimostratori, nello specifico da Claudio e Pietro di Area Games Forlì. Anche Buon Natale, anche se un po' in ritardo, di un giorno. perché noi stiamo registrando il giorno di Natale, infatti siamo per una volta nella stessa stanza e quindi attrezzati con un unico microfono, quindi la qualità dell'audio sarà diversa dal solito, probabilmente, magari migliore. Ma questo sarà tutto da vedere. Comunque, siamo tornati con l'ultimo episodio dell'anno, a quanto pare. Sì, è l'ultimo dell'anno, perché il prossimo episodio magari lo registriamo ancora nel 2016, ma andrà comunque in onda nel 2017, quindi bene, finiamo il 2016 parlando di giochi per il Capodanno, giusto? Sì, cioè non a tema Capodanno, ma giochi che si potrebbero giocare per Capodanno. Sì, il tema Capodanno non so quando sia stato utilizzato. Non mi stupirei, perché ormai a livello di temi hanno usato qualsiasi cosa. Cioè, se pensiamo che esiste il gioco in cui devi gestire la fiera di Essen, O il cioè. gioco che serve a decidere chi sarà il primo giocatore nel prossimo gioco. Oppure c'è il gioco gestionale dove l'ambientazione è l'albergo di Essen dove di solito alloggiano i creatori di giochi e comunque le case editrici. Vabbè. Ok, iniziamo con l'episodio vero e proprio, basta aneddoti poco interessanti. E parliamo di giochi appunto adatti per la sera di Capodanno. Allora, visto che di molti abbiamo già parlato, nello specifico, magari li citiamo solo alla fine, facciamo un elenco. Ok. Mentre per andare proprio nello specifico ed esplorare un gioco nelle meccaniche, io oggi parlerei di un gioco che ho acquistato l'altra sera durante l'asta associativa, l'asta di Natale di Area Games, che è andata molto bene, abbiamo avuto ben 114 giochi in vendita, e io sono riuscito a mettere le mani su un gioco che da molto tempo non provavo e che da molto tempo volevo, e il gioco in questione è Hacketorp della Queen Games. Hacketorp, un gioco di battaglie tra vichinghi, è questo gioco da 3 a 6 giocatori dove noi interpreteremo un villaggio vichingo che, per costruire le mura del proprio villaggio, raccoglie risorse picchiandosi con gli altri vichinghi e ruba risorse dalle mura degli altri per costruire le proprie mura. Quindi è un gioco in cui ci si dà le botte, sostanzialmente. È un gioco molto cacciarone. In cui ci si mette molto i bastoni fra le ruote e ci si fa un sacco di gran risate. Allora, vediamo il gioco nello specifico. Il gioco è composto da questa plancia, in cui ci sono gli spazi per raccogliere le risorse e i nostri villaggi dei vari giocatori, con attorno gli spazi in cui costruire le mura e gli spazi per essere assediati. Poi, ad un lato della plancia, c'è anche il lazzareto. Questo percorso di cura che faranno i vichinghi per tornare al villaggio disponibili di nuovo a raccogliere e combattere. Poi ogni giocatore avrà una plancia in cui programmare le azioni dei propri vichinghi, uno schermo e poi dopo le varie carte combattimento, i token come gli amuleti. In più i meeple che rappresentano i vichinghi e dei rettangolini di legno, parallelepipedi di legno, che rappresentano le risorse. Il mattone, la pietra, la paglia e così via. E il turno di gioco funziona in questo modo. I giocatori, a seconda del numero di giocatori, hanno a disposizione un tot di vichinghi dietro il loro schermo. Nella plancia dietro allo schermo programmano le azioni che faranno durante il turno. Quindi possono mettere due vichinghi nella raccolta del mattone nella zona tal dei tali, perché alcune risorse hanno anche più aree, tipo ad esempio il legno. Può essere raccolto in diverse aree. Importante scegliere un'area perché poi potresti scontrarti con un altro giocatore. E in più le aree hanno diverse capienze. A inizio turno viene pescata una carta dal mazzo delle risorse per determinare quante risorse sono disponibili in questo turno in determinate aree. Alcune risorse, quelle come la roccia ad esempio, non vengono mai azzerate, nel senso che se a fine turno rimane della roccia, questa rimane anche il turno successivo. Le risorse deteriorabili, come il grano, come la paglia, anzi, quella che a fine turno viene raccolta viene azzerata e il prossimo turno viene rimessa attraverso queste carte risorsa, mentre altre si accumulano. Quindi dicevamo, i giocatori dietro lo schermo hanno questa plancia in cui decidono come piazzare i loro vichinghi. Possono metterli nelle zone di raccolta, possono metterli a difesa del proprio villaggio, oppure possono metterli ad assediare un villaggio nemico. Nella difesa e nella raccolta possono essere messi quanti vichinghi si vuole. Per ogni assedio e per ogni lato di assedio, perché ci sono tre tipi di assedio, con catapulta, ariete e con nave, può essere messo un solo vichingo. Quindi una cinta muraria, una frazione di cinta muraria di un villaggio può avere un solo vichingo dello stesso colore, ma più vichinghi di colore diverso. Una volta che tutti hanno piazzato i loro vichinghi, tutti i giocatori tolgono lo schermo e vanno a mettere i vichinghi nelle zone che hanno programmato. E a questo punto possiamo vedere quali si affronteranno. Allora, se nelle zone di raccolta funziona in questo modo, se c'è abbastanza materiale per tutti i vichinghi che sono in quella zona, non succede niente, ognuno prende il suo pezzo di materiale, un parallelepipedo per vichingo, e tornano a casa con il materiale raccolto. Se invece c'è anche un solo vichingo che rimane sguarnito, non importa il colore, basta che non ci sia materiale anche solo per uno, inizia una battaglia. A quel punto tutti i giocatori coinvolti giocano una carta battaglia tra quelle 4 che hanno in mano. E vengono rivelate e queste carte hanno un numero, vince ovviamente il numero più alto. A questo punto viene calcolata la differenza tra le due carte giocate, ad esempio se uno ha giocato un 1 e uno un 4 la differenza è 3 e lo sconfitto va nella zona del 3 del Lazzareto e quindi ci metterà un po' di turni per tornare perché 3 mi sembra sia il danno non il massimo ma qua è quello prima. E poi a quel punto, se ci sono, il vincitore prende la risorsa. In più, le carte che sono state giocate vengono scambiate. Quindi chi ha giocato l'1 si ritrova il 4 e chi ha giocato il 4 si ritrova l'1. Messe, a fianco della plancia e torneranno in mano all'inizio del prossimo turno. Quindi non sono già rigiocabili nello stesso turno per altri conflitti. Quindi l'altra cosa particolare del gioco è che quando vengono giocate le carte vengono scambiate tra i giocatori. Queste carte battaglia inoltre possono essere l'unico altro modo che possono essere cambiate con il mazzo è usando gli amuleti. Usando un amuleto puoi scambiare le carte, scartare una carta e pescare una nuova dal mazzo. Gli amuleti ne vengono dati 4 all'inizio partita e valgono un punto vittoria a fine partita se non vengono utilizzati, ma sono l'unico modo per scambiare carte tra la mano e il mazzo, altrimenti le carte si scambiano ogni volta che si combatte. Questo è come si risolvono i combattimenti nella zona di raccolta. Mentre durante un assedio, se in una stessa zona di assedio ci sono due giocatori, per decidere chi ha il diritto di assediare, questi due giocatori combattono. E chi perde va nel lazzareto, chi vince va a fare l'assedio. Se assedi un villaggio che non ha un difensore, il giocatore che possiede il villaggio giocherà una carta. La sua carta avrà valore 0. La sua carta avrà valore 0. Però comunque verrà scambiata con quella dell'attaccante. Quindi è un buon modo per dare via gli 1. E l'attaccante prenderà un tot di risorse pari al valore della differenza. Quindi se l'attaccante gioca un 4 contro una carta di valore 0, può togliere dal pezzo di muro fino a un valore di risorse pari a 4. Di queste, innanzitutto dovrà iniziare a togliere dall'alto. In più potrà tenerne una sola. Il vichingo si porterà a casa un solo pezzo. Tutti gli altri vengono semplicemente rimessi nella scorta, quindi fai del gran danno. Ma di questi ne prendi uno solo. Se invece dentro al villaggio c'è un vichingo difensore, questo vichingo permette di utilizzare le carte combattimento con il valore raffigurato, semplicemente le carte non valgono 0. Mettere più di un vichingo ha senso perché se il vichingo perde l'assedio, uno dei vichingo difensore finisce nel lazzaretto, ma comunque ne rimangono altri a difesa per i prossimi assedi, perché un villaggio può anche essere assediato da quattro lati, quindi da tre lati, quindi ben tre assedi a turno. Una volta che tutte queste cose sono risolte, i giocatori vanno a piazzare le risorse che hanno raccolto o razziato attorno al loro villaggio costruendo le mura. Ogni muro può avere fino a 3 di altezza. Fatto questo, si recuperano le carte a bordo della plancia, ovvero quelle scambiate che vengono dagli scambi con gli altri giocatori, per riformare la mano di 4 carte. Tutti i vichinghi nel lazzaretto vanno un passo in avanti verso l'uscita. Chi esce torna nella scorta disponibile già per essere piazzato. Inizia un nuovo turno. La partita finisce quando si arriva al, sono stati giocati 10 turni, oppure quando un giocatore riesce a completare tutte le mura del villaggio, che sono ben 18 pezzi. E non è facile. E questo è Hackethorpe. Il regolamento è molto semplice, abbiamo già detto tutto. I punti vittoria sono determinati da che il valore delle mura, più sono pregiati i pezzi che compongono le mura, e più varranno punti vittoria a fine partita. Quindi la roccia è quella che vale di più. Poi abbiamo l'erba, la legna e la paglia. Mi sembra sia il giallo, o è il mattone, perché hanno scelto il giallo per il mattone. E poi se il giocatore che fa finire la partita perché ha completato il muro farà dei punti extra, e gli amuleti non utilizzati, ognuno vale un punto in più a fine partita. Questo era Hackethorpe, gioco della Queen Games, che è disponibile in edizione multilingua, quindi comprando la scatola normale che si trova nella nostra zona d'Europa. Dentro c'è sia l'italiano che l'inglese, che il tedesco, che il francese. E il gioco ha un costo di 35 euro. Dovrebbe No. essere anche abbastanza difficile da trovare attualmente. Anzi, no, scusate, l'edizione multilingua costa 50 euro, sui 50 euro. L'edizione solo in tedesco invece costa 35 euro, ma il gioco non contiene testo, a parte il regolamento, quindi è possibile scaricare il regolamento in italiano e giocare il gioco in tedesco senza problemi perché non c'è testo. Ok. Gioco del 2003, te penso. Durata di una partita sui 40 minuti, sì, e da 3-6 giocatori, questo è anche molto importante. In 6 è molto bello il gioco. Va bene. Va bene, abbiamo finito con Hackethorpe. Passatemi il microfono, per favore. Ok, Eccolo. possiamo passare al mio gioco dell'anno, di fine anno, semmai, che è un gioco che è stato regalato come premio al torneo, famosissimo torneo di Smash Up 2016 della nostra stazione. Quindi è stato il primo premio del torneo ed è il buon Xenoshift Onslaught, un gioco enorme di dimensioni per la scatola. Questo non vuol dire che sia un gioco che contenga un sacco di roba, perché metà della scatola è occupata da cose inutili, però bisogna semplicemente dire che è un gioco di carte con qualche plancia, ma è un signor gioco. Il titolo vi farà già capire che genere di gioco sia, perché è Massacro degli Alieni. È basato molto probabilmente sulla saga dei film di Starship Troopers, perché gli alieni sono tutti insettoidi molto simili al film classico. Arachnidi. Sì, che combattono contro degli umani in tute spaziali con Dei Space Marine. vari tipi di robot o armi futuristiche. Ed è un cooperativo veramente particolare che purtroppo non è mai uscito in italiano. Si può trovare in inglese, ovviamente ha del testo, essendo solo un gioco di carte, non va con dei simboli ma con degli effetti principalmente. Ed è, a mio avviso, un gran bel cooperativo. Da 1 a 4 giocatori, quindi si può giocare anche in solitaria. La variabile dell'aggiungere giocatori cambia parecchio il gioco, perché aggiungendo un giocatore, la base che noi difenderemo avrà più punti vita, ma ci saranno molti più mostri da combattere. Quindi si potrebbe dire che con più giocatori è più difficile il gioco, anche se a mio avviso, che l'ho già giocato 2 volte, credo che il gioco sia più difficile con meno giocatori, perché sono riuscito a vincerlo sia in 3 e 4 giocatori, e Mentre mi è stato detto che in due giocatori è molto difficile e si perde molto facilmente. La prima partita del gioco, nonostante Board Game Geek dica che sia un gioco che dura dai 30 minuti all'1 ora, la mia prima partita è durata 3 ore. L'abbiamo finita, eh. Quindi potrei dire che il gioco dura 9 turni, che in media ci vuole 1 ora per fare 3 turni, bene o male. Più o meno siamo lì. Allora, come funziona il gioco? Ogni giocatore ha il comando di una base, di una parte della base degli umani da difendere. Quindi ci sarà un mazzo di basi, ce ne sono 6 nel gioco, vengono mischiate e date una casualmente a ogni giocatore. Questa base, oltre ad essere l'avamposto che noi proteggiamo, ci darà dei poteri che sono unici e sono solo per noi. Inoltre, ci dirà quali carte saranno all'inizio del nostro mazzo, perché questo è un deck building, oltre che essere un cooperativo, un signor deck building cooperativo. Vi faccio un esempio: se io sono a difesa del reparto medico, nel mio mazzo, oltre ad avere i soldati di base e la materia prima che usiamo come moneta, sempre in forma di carte, avrò anche dei kit medici in più che gli altri non hanno, perché io ho il settore medico e quindi sono già disposto con questi. Mentre chi ha il settore della fanteria avrà più unità di base nel mazzo, o chi avrà il settore degli esplosivi partirà con delle granate in più nel mazzo. Il mazzo iniziale comprende 10 carte, tra cui due speciali che sono date dalla parte della base che difendiamo, e 4 unità e 4 monete, se non ricordo male. Le unità di base sono i classici soldati, i poveracci con l'elmo, l'armaturina del cavolo e un fucile abbastanza debole. E il gioco è diviso per tre tipologie di carte che potranno girare nel nostro mazzo, che sono le Xenoshift, pietre gialle che vengono usate come moneta di scambio nel gioco. Con queste carte, delle quali all'inizio partita avremo carte Xenoshift dal valore di una moneta, noi potremo spenderle e metterle nel cimitero del nostro mazzo per acquistare nuove unità o equipaggiamenti che entreranno a far parte del nostro mazzo. Appena acquistate queste cose, verranno messe nella nostra mano subito. Le Xenoshift nel corso della partita potranno valere più punti, perché come già detto, il gioco è un gioco di difesa dove noi dobbiamo resistere 9 turni a delle ondate di alieni. I primi 3 turni sono la prima ondata con gli alieni più deboli. Dal quarto al sesto turno siamo all'ondata intermedia dove sono i mostri di medio livello. Dal settimo al nono turno saranno i mostri fortissimi. Quindi, quando noi passeremo alla seconda ondata, potremo avere a disposizione le Xenoshift dal valore di 3 monete. Mentre all'ultima ondata avremo delle carte che avranno il valore di 6 monete. Anche perché ogni volta che noi passiamo a un'ondata diversa sono disponibili nuove unità da comprare. Praticamente questo per mostrare che stanno arrivando dei rinforzi più forti per salvare la base, che all'inizio era mal disposta, e nuove tecnologie. Questo vale anche per gli equipaggiamenti, perché oltre alla tabella che rappresenta le unità che possiamo comprare, avremo anche una tabella che vale per tutti, dove potremo acquistare equipaggiamenti. Saranno degli equipaggiamenti di base dati a seconda di quello che noi stiamo difendendo in questa partita, e più altri equipaggiamenti pescati a caso, che andranno a rimpolparsi. Vi faccio un esempio. Una carta equipaggiamento potrebbe avere tipo 5 coppie. Facciamo caso che c'è il lanciamissili che ha 5 coppie. Se vengono comprate tutte le 5 carte, questo è esaurito e il prossimo turno uscirà un nuovo equipaggiamento disponibile casuale. Ovviamente le carte acquistate andranno a fare parte del mazzo di quel giocatore e gli altri non avranno più a disposizione, quindi bisogna anche gestirsi il mercato. E il turno di gioco è molto semplice. All'inizio di ogni turno tutti i giocatori pescano 6 carte dal loro mazzo. Se ne hanno rimaste in mano dal turno precedente, ne pescano fino ad arrivare 6, tenendosi quelle che hanno rimasto. Non c'è un'iniziativa. Si sceglie chi inizia il turno tra i giocatori. Quel giocatore, in questo momento, nella fase mercato, può spendere Xenoshift per comprare nuove carte che andranno a fare parte della sua mano. Oppure può scartare e togliere dal suo mazzo unità di base, quindi i soldati più deboli, per farli diventare degli sconti per comprare altre unità da battaglia. Quando tutti hanno completato questa fase, c'è lo schieramento. Ogni giocatore ha a disposizione due plance, la plancia del suo schieramento di fanteria e la plancia dello schieramento dei nemici, che comprendono 5 carte ciascuna, o 4, adesso non ricordo bene. Noi in questo punto possiamo giocare dalla mano le nostre carte unità e dargli un'armatura e un'arma per unità, che sono sempre equipaggiamenti, più equipaggiamenti extra se è possibile, e disporre l'iniziativa che vogliamo. Quindi la unità che sarà in prima linea sarà quella che combatterà con i mostri finché non è morto, e quando questa unità sarà stata uccisa si passerà a quella che è in seconda linea e così via. Quando tutti hanno schierato, ogni giocatore pesca 4 o 5 carte mostro, adesso non mi ricordo quante sono, e le mette coperte nella sua zona di schieramento nemico. A questo punto si sceglie un giocatore e quel giocatore inizierà a rivelare i suoi mostri uno alla volta ed affrontarli con la sua prima unità di prima linea. E vediamo cosa succede. Le unità hanno a volte degli effetti e due statistiche che sono quanto danno fanno nel turno in cui attaccano e quanta vita hanno. I mostri hanno la stessa identica cosa. L'unico difetto, cioè il difetto, l'unico problema dei mostri è che molti hanno degli effetti a rivelazione. Cosa significa? Che appena io giro la carta, lui prima di combattere fa subito una cosa. Tuttavia, molti dei nostri equipaggiamenti o abilità di alcune unità sono chiamate istantanee e le possiamo usare in risposta a degli effetti di rivelazione dei mostri. Quindi prima che loro attivino il loro effetto, come controrisposta, che possono essere granate che gli lanciamo prima che facciano il loro effetto, oppure dei rinforzi che gettiamo nel campo al posto di quello che avrebbe dovuto affrontare il mostro. E l'altro problema del gioco, cioè della battaglia con i mostri, è che in ogni mazzo di ondata ci sono due boss che possono uscire. E può succedere che una persona se li becca tutti e due nella stessa battaglia. Ed è molto pesante perché i boss sono veramente potenti. E ogni ondata ha due boss completamente diversi. Le unità mostruose sono assurde. Ci sono quelle che fanno subito un sacco di danni appena arrivano, ci sono quelle che ogni volta che tu le colpisci fanno dei danni alla base, e se la base arriva a zero abbiamo perso. Ci sono quelle che addirittura non combattono col soldato in prima linea, ma attaccano quello che è in fondo alla linea. È veramente difficile. Devi riuscire a capire bene come gestire la tua zona. Ma non solo questo, perché molte carte che hai rimasto in mano le puoi usare come istantanei o come istantanei da usare sugli altri quando combattono per aiutarli. Perché tu puoi anche usare carte per aiutare gli altri nelle loro battaglie. E quindi il nostro obiettivo è sconfiggere questi mostri e cercare di non fargli uccidere tutta la nostra fanteria e farli rimanere in vita almeno qualcuno di loro. Perché se la nostra fanteria ci lascia il campo vuoto e sono rimasti dei mostri, questi fanno il loro danno alla base e poi se ne vanno, vengono tutti dal gioco. E la base parte con 15 punti ferita per ogni giocatore che è in gioco, quindi con un massimo di 60 si gioca in 4. Ci sono mostri che possono fare anche fino a 10 danni, quindi è molto facile perdere per questo punto. Quindi ogni turno, se si gioca in 4, bisogna difendersi da 4 lati diversi. E sono 9 turni. Il gioco prosegue tutto così. Però attenzione, una volta che noi abbiamo cambiato ondata, facciamo caso che siamo passati dal quarto turno, quindi alla seconda ondata, e cambieranno sicuramente i mostri a fine turno. Ora noi abbiamo a disposizione a inizio turno, le si hanno shiftate da 3 soldi. Prima avevo scordato di dire una cosa, all'inizio di ogni turno ogni giocatore, oltre a pescare le 6 carte di base, pesca anche una pietra Xenoshift, che aggiungerà al suo mazzo. Adesso pescherà una pietra Xenoshift dal valore di 3 monete. Noi, per far girare meglio il nostro mazzo, da adesso in poi, dal secondo turno, dalla seconda ondata e poi anche alla terza ondata, possiamo a inizio turno prendere 3 Xenoshift da un punto, dai nostri scarti, e scambiarle con una pietra Xenoshift da 3 che andrà ai nostri scarti. Così che il mazzo sarà più piccolo e sarà più facile pescare carte che ha dal valore di 3 invece che riempirsi la mano di carte dal valore di 1. Questa cosa potremmo farla anche negli ultimi 3 turni scambiando pietre da 3 con pietre da 6. Anche perché le unità da battaglia costeranno sempre di più e saranno sempre molto più forti. E il gioco è tutto così. I mostri sono tremendi, hanno degli effetti assurdi, tipo quelli che prendono il possesso delle tue unità che sono nei tuoi scarti e te le fanno diventare contro molto più forti. Ci sono quelli che vanno uccisi tipo 2 volte e tornano con metà della vita, ma fanno un sacco di danni. Ci sono quelli che quando li colpisci fanno direttamente danni alla base perché esplodono. È un gioco molto particolare, bisogna gestirsi bene. Se si gioca in meno, probabilmente è più difficile perché quando la base ha meno vita è tosta. Io vi dico, ho giocato 2 partite, le ho finite entrambe con la base che era rimasto 8 di vita, quindi eravamo messi molto male, anche perché negli ultimi turni i mostri fanno un sacco di danni. Molto molto bello, consigliatissimo, molto rigiocabile. Questo è Xenoshift Onslaught. Che tra l'altro è un Kickstarter che sembra andato molto perché ha sia il gioco innanzitutto per sistemi mobile al videogioco. Sì. E in più tra promo e mini espansioni ne ha quante ne vuoi. Mentre l'espansione grande è annunciata per marzo del 2017, che sarà Xenoshift Dreadmire, Ah, interessante. Dreadmire, ecco sì. Che praticamente la storia è che i Marines sopravvissuti allo Al primo, scontro sì. dell'alveare adesso sono su un pianeta, Genesis 7, un pianeta palude in cui saranno braccati dai soliti alieni in più dagli orrori di questo nuovo ecosistema sconosciuto alla razza umana. In più, visto che gli hanno fatto anche le miniature che non servono a nulla, ma sono molto belle. Ah, beh, di Cool Mini or Not, ci mancherebbe altro che non manco le miniature. Tra l'altro, una cosa curiosa è che dei due designer originali di Xenoshift nell'espansione ce n'è solo uno. Manca quello che ha il cognome più bello, incerto Karen Filosofales. Eh sì, la pietra Sì, di filosofale. cognome fa Filosofales, forse un nome d'arte più probabile. E qui diciamo ci sono anche molte mini espansioni, dei mazzi aggiuntivi e c'è anche l'espansione per aumentare il numero di giocatori fino a 6. Ah, questo è interessante, non lo sapevo, lo faremo sapere al nostro vincitore di Smash Up che sicuramente amplierà il gioco perché è molto, lo gioca molto spesso e volentieri. Sì, fino a 6 è un buon numero di giocatori. No, anche perché ti dico, più si è, forse peggio è. Adesso ancora io non ho perso in tanti, però non si sa mai. Intanto il costo del base è 60 euro. Esiste solo in inglese il gioco. In Italia viene distribuito. Cioè, non ha un distributore europeo. Arriva ai negozi che comunque si riforniscono direttamente dall'America. È lo stesso problema che riscontrammo puntate fa con Darkness Comes Rattling. Sono quei giochi che fai veramente fatica a trovare. Li trovi su Amazon, Più che altro ok. sono giochi che meritano, ma non hanno visibilità. Ma questo qui. Allora, di solito i giochi di Cool Mini or Not in Italia non hanno problemi a trovare distribuzione. Di solito sono sotto Asmodee. Vedi. Zombicide Black Plague. Rum and Bones, chi ce l'ha in Italia? Pendragon? Non mi pare sia la Culmini, non mi ricordo di chi. No, è di Cool Mini or Not, Sì. però in Italia mi sa che è della Pendragon. Può Vabbè. darsi. Comunque di solito i giochi Cool Mini or Not in Italia, in Europa, comunque nella nostra parte d'Europa, hanno una distribuzione solitamente. Questo è già del 2015 e ancora non ce l'ha, è molto strano in effetti. E vabbè, comunque esiste internet apposta, quindi non è un gran problema. Però il gioco è molto inglese, vero dentro, molta lingua da leggere, cioè. Ma ti dirò, il regolamento non mi sembrava neanche così tanto espansivo. No, non parlo del regolamento, parlo delle carte, c'è molto da leggere. Un pochino, ma in realtà un inglese molto semplice, cioè alla fine dei conti. Ma spesso è una barriera, quindi vedo Sì, che d'inglese ce n'è più che abbastanza. altro i mostri, quando riveli i mostri devi leggere un po' di roba. Quindi questo può essere abbastanza una difficoltà, il fatto che esista solo in inglese e vabbè. Comunque ne parlano tutti come un gioco innovativo veramente. Uno dei migliori cooperativi degli ultimi tempi, questo lo posso E dei migliori assicurare. deck building, probabilmente. Quindi è già primeggia già nelle due categorie a cui appartiene. Quindi va bene. Prima di andare in chiusura, parliamo di un gioco velocissimo. È stato un mio regalo di Natale. Cioè, l'ho ricevuto come regalo di Natale. E il gioco è Kobayakawa. Non è Kobayakawa. un Kobayakawa. Cosa? Damn you, Kobayakawa, Esatto. maledetto Kobayakawa. Kobayakawa è un samurai. Che durante la battaglia di Sekigahara, la battaglia per l'unificazione del Giappone, ha tradito la sua fazione passando con l'altra e sostanzialmente decretando La vittoria della fazione della fazione dell'est. di Est, sì. Tokugawa. E quindi c'è questo gioco dedicato al samurai Kobayakawa. All'inizio dici, boh, è un gioco con 15 carte, cosa c'entra con Kobayakawa? Effettivamente la meccanica può essere ricollegata a questo passaggio di fazione. Praticamente in questo semplicissimo gioco, dentro abbiamo 15 carte, una serie di monete e un segnalino primo giocatore, tutto qui dentro la scatola. E come funziona? Allora, praticamente ogni giocatore riceve una carta a inizio partita e 4 monete. E in più ci saranno 8 monete al centro del tavolo, tutte le altre che avanzano vanno nella scatola perché servono se si gioca in tanti, visto che il gioco tiene fino a 6. A questo punto viene rivelata dal mazzo una carta che sarà Kobayakawa, questa carta scoperta. Questa carta scoperta durante la fase di battaglia andrà a schierarsi col giocatore che ha la carta più bassa. Quindi Kobayakawa cambia fazione a seconda di chi ha la carta più bassa, sostanzialmente. Il collegamento con la tematica è questo. Il gioco è in due si svolge in due fasi. La fase di pesca, in cui i giocatori, partendo dal primo giocatore, possono o tentare di cambiare la carta che hanno in mano con una pescata dal mazzo, quindi pescano una carta dal mazzo e scelgono quale delle due tenere, oppure cambiare Kobayakawa, girare la prima carta del mazzo, che andrà messa sopra a quella scoperta precedente, e sostituirà il Kobayakawa che sta al centro del tavolo. Quindi, dopodiché, quando tutti i giocatori hanno fatto questa draw phase, dove devono fare obbligatoriamente una delle due cose, ci sarà la fase di combattimento, in cui tutti i giocatori rivelano la carta che hanno in mano e chi ha la carta più bassa avrà Kobayakawa dalla sua parte. Le carte vanno da 1 a 15, quindi ad esempio se un giocatore in mano ha 1 e Kobayakawa ha un 14, lui avrà un 15. Quindi il vincitore prenderà una moneta dal centro del tavolo più una moneta dai giocatori che hanno partecipato al combattimento. Ecco, scusate di dire che il combattimento non è obbligatorio, i giocatori decidono se partecipare al combattimento e il prezzo di entrata è una moneta di puntata. Quindi possono anche non combattere. Se nel caso nessuno combatta non succede niente, nel caso, ma non, in teoria non succede, perché l'ultimo giocatore che deve decidere se combattere mette una moneta e vince una moneta sostanzialmente. Perché nel caso rimanga un solo giocatore e nessuno accetti il combattimento tranne lui, lui vince una moneta dalla posta nel tavolo, dalle 8 del tavolo. Quando al centro del tavolo rimangono solo due monete nella pila da 8, inizia l'ultimo round. In questo round si vincono, il vincitore dello scontro vincerà le due monete, e in più per entrare nel combattimento finale, nella fase di combattimento, servono due monete di posta d'entrata. Il gioco è tutto qui. La cosa interessante è proprio questo fatto di, nella draw phase, decidere se cambiare carta e tentare di avere una carta più alta o più bassa, perché magari vuoi Kobayakawa da tua parte, oppure sei già partito col 15 e abbassi Kobayakawa perché vuoi che il giocatore che ha la carta bassa sia debole, perché quindi c'è la più alta, ma se Kobayakawa è 14 e un altro ha 4 in mano ti ha già battuto. E quindi è molto interessante questa scelta che ti viene fatta a seconda della carta che peschi, come giocare, se cercare di cambiare la carta al centro del tavolo che cambia fazione o cercare di cambiare la tua carta in mano. È molto interessante come meccanica. Il gioco è da 3 a 6 giocatori, ma i giocatori possono essere eliminati durante la partita. Se un giocatore finisce i soldi è eliminato, quindi può anche arrivare a essere durante la partita possono rimanere due giocatori. E dura una quindicina di minuti circa, anche meno in realtà. E costa all'incirca 10 euro. Il gioco è della Yello, distribuito dalla Yello e della Superlude, la casa editrice. E quindi, essendo Yello in Europa, nella nostra Europa, nostra parte d'Europa occidentale, è molto facile da trovare. Inoltre, essendo un gioco Yello, ha una scatola bella corposa e resistente, è difficile da aprire, aggiungerei, e componenti ben curati. All'interno della scatola addirittura c'è già la Ziploc per metterci i token. E questo era Kobayakawa. Bene, adesso prima di chiudere passiamo ai consigli per il Capodanno. Allora, io direi essenzialmente un Cash and Guns. Ok, se vuoi andare sui giochi leggeri, sì. Adattissimo per il Capodanno. Allora, parliamo di quello che porteremo noi per Capodanno. Allora, io ho fatto la lista anche per quello che richiedo. Io praticamente chiederei solo dei cooperativi enormi fino a 6 giocatori, cose Sono assurde. d'accordo. Però anche per ricordare le vecchie festività, devo fare una scelta difficile tra Osser una volta o Obi Tales. Hobbit Perché il Tales. narrativo ci vuole sempre a Capodanno per dire un sacco di cavolate. Però Hobbit Tales con regolamento custom, perché il regolamento di Hobbit Tales è terribile. Ha un regolamento di punteggi che è sbagliato, ma se ci diamo una modifica può essere Sì, va divertente. giocato più simile a C'era una volta. Senza interruzione. Cioè, sì, più simile, diciamo. Sì, diciamo che di pro al confronto di C'era una volta ha il fatto che ogni narratore comunque non può essere interrotto in modi estremi come C'era una volta. Sì, non ti ostacolano la storia, ma non te la stravolgono, insomma. A parte i narrativi piccolini e Semenza, perché Semenza è un gioco da 7 e ci vuole a E Capodanno. Six Nymphs. Anche se è Nymph, Io adoro ovviamente. Six Nymphs. Io parlerei di Cyclades, Espanso, io Cyclades Espanso a Cyclades con tre Capodanno, espansioni, sono d'accordo. perché è un bel Giocare a gioco a squadre. squadre, ci può stare. Poi mi vorrei giocare un bell'Arkham Horror, che a me piace molto. Sempre Xenoshift, se c'è tempo. E anche un Battlestar, Con volendo. prima espansione, se Ma riesco. Se... soprattutto per ricordare le festività, per ricordare un Halloween del passato, Carnival Carnival Zombie. Zombie, tutta la vita. Carnival Zombie, sicuro. E Battlestar verrà inaugurata la prima espansione se entro Capodanno riesco a finire di vedere la seconda stagione. Perché cioè, ho girato la scatola della prima espansione e ci sono già degli spoiler dietro la scatola. Cioè, non è possibile. Io ho tutte le espansioni di Battlestar. Devo ancora guardare quasi 60 episodi per poterle giocare tutte. Quanto dovrò aspettare ancora? Mi sono stufato di giocare al base quando ho tre scatole lì che Tanto aspetto. prima cerca di vincere il base, poi passa Sì, all'espansione e effettivamente te l'hai non ho vinto. mai vinto il base da umano. Da Silone sì. Vabbè. E quindi Battlestar, sicuramente con la prima espansione Pegasus. E Carnival Zombie. Poi vediamo. Ma Neuroshima X con un po' di espansioni Last anche. Night, io non snobberei neanche un Last Night on Earth. Last Night on Earth, perché no? Fammi pensare. Ma perché anche non Shadow Over Camelot? Sì, è giusto, me l'ero scordato. Xenoshift, cioè parliamo di Xenoshift. Hecatorp ci sarà. Va bene. Diciamo che praticamente basta ascoltare gli scorsi episodi per capire cosa porteremo a Sì, tutti i Capodanno. giochi che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato quasi tutti. Ah, e Ghost Stories. Sì. Non scordiamoci Ghost Stories con tutte le espansioni, così posso fare Wufang. Va bene. Passiamo agli appuntamenti associativi. Allora, appuntamenti associativi. Questo episodio andrà in onda lunedì, quindi riusciamo ad annunciare quello che ci sarà mercoledì 28. Mercoledì 28 noi di Area Games saremo a Faenza. Ospiti dei nostri amici di Ludicamente Brisighella presso il circolo che adesso vado a cercare come si chiama, che non mi ricordo, per una serata di gioco in cui vi annuncio già se volete venire, porterò Battlestar Galactica e Hecatorp, quindi di giochi che ho portato negli ultimi episodi. Se volete provarli, ci saranno perché li porterò. E adesso cerco il nome dell'evento per potervi dire esattamente il luogo. Eccolo qua. Trovato. Allora, saremo presso il circolo Prometeo Arci di Faenza in vicolo Pasolini 6 dalle 8 e un quarto. Serata libera di gioco in cui porteremo un sacco di bei gioconi da farvi provare. Questo è il 28, mentre il 30 c'è cioè l'ultima serata associativa dell'anno per Area Games prima di Capodanno. E la settimana successiva invece avremo due eventi. No, un evento. Il 6 avremo. Ah, beh, sì, due eventi in realtà. Perché il 6 ci sarà una serata associativa, ma con ospite Daniele Tascini, autore di Tolkien e Marco Polo. E quindi ci sarà una serata con autore. Potete provare il suo nuovo prototipo. Potrete provare i suoi classici. Fargli autografare le scatole se li possedete. E l'8 invece saremo a Mercato Saraceno tutto il pomeriggio presso la scuola elementare, nella mensa della scuola elementare Mercato Saraceno, per l'evento A che gioco giochiamo, che è già la sua sesta edizione che facciamo, ormai è un classico, dove porteremo giochi per bambini, massimo adolescenti, e quindi un evento per le famiglie, Mercato Saraceno in provincia di Forlì Cesena, più vicino a Cesena che a Forlì. E basta, tutto qui. Comunque, per dettagli sui nostri eventi, basta che seguite la pagina Facebook Area Games ACSD, Associazione Sportiva Dilettantistica, viene aggiornata quotidianamente con gli eventi e le foto di ciò che facciamo. Mentre con la conquista del gioco ci rivediamo l'anno nuovo, perché il primo episodio dell'anno nuovo andrà in onda il 2 gennaio, sì, del 2017. Condividete il podcast, fatelo conoscere, condividete Radio Big World, soprattutto l'emittente che ci manda in onda, che ha sempre bisogno di nuovi ascoltatori e di fondi, visto che è autofinanziata. Se volete lasciarci commenti o consigli sul podcast, nella pagina ufficiale di Radio Big World di Alla Conquista del Gioco è possibile lasciare commenti. E niente, fate ascoltare il podcast ai vostri amici, cerchiamo di aumentare gli ascoltatori. E cogliamo l'occasione per farvi auguri di Natale in ritardo e gli auguri di Capodanno, visto che il prossimo episodio sarà già nell'anno nuovo. Buon Natale! E buon Capodanno. E buon anno nuovo. Ok, ci salutiamo qui con la conquista del gioco da Pietro e Claudio. Ciao. Auguri! Auguri.